Questo dicembre del 1998 costituisce una scadenza piuttosto importante per la teoria dei modelli evolutivi. Perché? Perché nel 1983 Stephen Jay Gould pubblicò Quando i cavalli avevano le dita, una raccolta di saggi fra i quali svettava quello dedicato alla diminuzione delle dimensioni filetiche nelle barre al cioccolato Hershey. In questo saggio Gould raccontava che prima della guerra, allorché lui era adolescente, era ghiotto di Vitz, ovvero di una barretta dal contenuto non del tutto chiaro, ma guarnita di noccioline e ricoperta di ottimo cioccolato. Costava un nichelino e valeva esattamente 5 centesimi di dollaro. Gould è un paleontologo e come tale cerca in quella parte della storia della vita in cui è possibile cercare qualcosa, vi cerca qualche regolarità, qualche modello che si ripeta, trovandone, come dice lui, pochini peraltro. Fra le cose appurate in questo ambito sembra che ce ne sia una relativa alle dimensioni dei costrutti biologici, i quali tenderebbero ad aumentare costantemente la propria dimensione corporea. Ciò comporterebbe dei vantaggi come la possibilità di procurarsi più cibo, la produzione più ricca di prole e la dimensione maggiore del cervello. Ci sono casi di organismi biologici che sono andati in direzione opposta, cioè diminuendo, ma prendendo troppo sul serio la loro linea evolutiva di diminuzione in diminuzione, sono letteralmente spariti. Tuttavia, tenendo ben presente che ciò che è raro in natura può invece essere comunissimo in cultura, Gould, il paleontologo ghiottone, si è preso la briga di indagare con i propri strumenti sui mutamenti della sua barra al cioccolato preferita. In sintesi, Gould ha individuato una graduale diminuzione delle dimensioni filetiche all'interno di ogni linea genealogica di prezzo e correlativamente improvvise mutazioni orientate a barre più cospicue in termini di peso e di prezzo ogni qualvolta i declini delle barre precedenti si avvicinavano ad un punto, diciamo, di prossimo alla catastrofe. Qualche esempio: nel 1949 la barra da un nichelino pesava 28 grammi e mezzo, più o meno un'oncia. Subisce un calo di un ottavo del suo peso, ma nel 65 riesce a tornare al peso originario. Da lì in avanti, tuttavia, è un martirio. Perde 7 grammi in 32 mesi e si estingue, ovvero non viene più prodotta, nel maggio del 1976. La barra da 10 centesimi parte da 56 grammi nel 65, arriva a 34 grammi nel 73 e si estingue il primo gennaio del 74. La barra da 15 centesimi nasce alla vita nel gennaio del 74 e pesa 40 grammi, ma perde vistosamente peso ad un ritmo allarmante per lasciare definitivamente questa valle di lacrime innocente come un giglio il 31 dicembre del 1976. A soli 2 anni di età. La barra da 20 centesimi la sostituisce prontamente, già in quel dicembre del 76, pesa alla nascita 38 grammi e manifesta presto anch'essa una pessima salute. Si estingue il 15 luglio del 79. La penultima linea genealogica di prezzo è quella della barra da 25 centesimi, che allorquando Gould scrive il suo saggio nel 79 pesa 34 grammi, cala a 30 grammi nel marzo dell'80 e muore nel marzo dell'82. L'ultima sarebbe quella da 30 centesimi, che venendo al mondo pesava 43 grammi, cioè tornava ad un peso più o meno superiore a molte di quelle che l'avevano preceduta, ma a causa di un fattore che il paleontologo non poteva prevedere, ovvero la concorrenza di un'altra ditta con una strategia di mercato innovativa che costrinse la Hershey ad un adattamento evolutivo repentino. Tutto ciò per dire che con tutti questi dati in mano, il paleontologo ebbe anche il modo di fare una fosca previsione che ci riguarda. Secondo il modello evolutivo del rapporto fra peso e prezzo, infatti, si poteva prevedere per questo nostro dicembre 1998 l'introduzione sul mercato di una tavoletta al cioccolato rigorosamente priva di peso al modico prezzo di 47 centesimi e mezzo. In cultura, come si sa, possono darsi anche le mutazioni più imprevedibili e se viene venduta, come viene venduta l'aria di Napoli in scatole sigillate, può anche essere venduta la barra al cioccolato priva di peso. Un'altra linea evolutiva che andrebbe studiata con i modelli darwiniani, per esempio, è quello delle luminarie natalizie. Già negli anni scorsi mi sono chiesto fino a quanti giorni prima del Natale si poteva retrocedere prima che venissero accese. Oggi possiamo anche porci il problema dell'evoluzione dell'orario di accensione di queste luminarie. Ieri mattina, giornata tersa di bel sole, come questa, via Pier della Francesca, luminarie natalizie invisibili e accese. Siccome di solito sono i negozianti che finanziano queste iniziative, si entra dal primo salumaio, si dice, ha visto? Guardi, tutte le luci in tutta la via sono accese. E beh, risponde, gli si dice, scusi, è giorno pieno, non si vedono neppure, è uno spreco. Siamo in Italia, qualcuno pagherà. E ride, ride, e non è affar suo. E forse è tanto assuefatto al quieto vivere da crederlo davvero, ma è infastidito. E sotto sotto infastidito, che gli importa a lui? Lo spreco è ancora funzione del suo tornaconto ed è uno dei tanti tasselli della sua indifferenza. Gli dà fastidio però che qualcuno non accetti il patto implicito fra chi vende e chi compra. Sia che tu compri barre al cioccolato, sia che tu compri uno sguardo amichevole o un'ombra di solidarietà sociale, sei tu dalla parte sbagliata della storia e dunque subisci in silenzio.